YouTube Social Network. E rieccoci insieme per la seconda ora dal Social Village, passiamo al Social Network. Abbiamo parlato di tanti argomenti nella prima ora, abbiamo parlato molto di cinema perché siamo andati a curiosare un po' nel futuro in tutte le uscite da qui all'Epifania, perché abbiamo come sempre un budget limitato per andare a vedere i film, quindi bisogna sapere tutti quelli che escono e scegliere in anticipo. Abbiamo parlato con il figlio di Bud Spencer, bello, bellissimo, un bellissimo incontro, perché l'iniziativa dell'audio autobiografia di Bud Spencer è bellissima. Abbiamo parlato un po' di televisione, adesso continuiamo a parlare di televisione e anche di musica, e parleremo ovviamente moltissimo di musica perché, come vi ho anticipato nella prima ora, sono arrivata di corsa perché questa mattina ho assistito alla conferenza stampa di Claudio Baglioni a Sanremo e sono arrivata guidando nei limiti di velocità, ligia al dovere nei limiti di velocità, ma in tempo per il nostro RadioTube, e tra poco parleremo di Sanremo, ascolteremo cosa ha detto Claudio Baglioni, abbiamo anche un grandissimo ospite finalmente in studio, uno dei nostri esperti di RadioTube, ma intanto do il bentornato a un altro dei nostri amici di RadioTube, direttamente da TV Talk, è sceso dal palazzo di Corso Sempione ed è arrivato fino da noi Sebastiano Pucciarelli. Ciao Sebastiano. Buon pomeriggio Marta, buon pomeriggio. Eccoci ascoltatrici qua. E ascoltatori. Ah, ti è piaciuto? Allora sei tornato, Mi sono trovato molto bene. Scopriamo la radiofonia. Sono contenta. Intanto, se sentite dei rumori, ma non li sentite, è perché è arrivato anche il nostro secondo ospite, ma intanto lo faccio accomodare e poi ve lo presento. Poi ve lo presento tra qualche minuto. Allora, cosa è successo questa settimana in televisione? Parliamo subito di televisione, che approfittiamo del fatto di avere accanto Sebastiano Pucciarelli. Beh, questa la sai perché è un momento molto bello che è successo questa settimana in televisione. Torna all'eredità Fabrizio Frizzi! Grazie, che emozione! Non faccio un inchino, te ti sbatto la testa, no? Non è il caso. Vedi queste? Certo, conosco bene. Riconosco. Queste sono le chiavi dello studio. Ce le siamo scambiate più volte. Esatto. Qualche tempo fa hai fatto uno scherzetto. Io l'ho preso come supplente, ora te le ridò. Grazie. Grazie Carlo di tutto, grazie. Questa Carlo. Auto meravigliosa. Questa meravigliosa nave ha due piloti. Continueremo ad alternarci. Quindi, se vuoi. Come no? Ecco, torna. Però io rimango sempre supplente. Allora Sebastiano, il ritorno di Fabrizio Frizzi all'eredità, video che è stato condiviso tantissimo in rete, finito su tutte le home page dei giornali online. Beh, un momento importante, perché questo fa anche capire un po' l'affetto del pubblico nei confronti dei conduttori. Cioè, diventano persone di famiglia. E soprattutto di quel conduttore, nel senso, come si fa a non voler bene a Fabrizio Frizzi? Cioè, sì, è inevitabile. Ci sono altri conduttori più divisivi, poi ovviamente il male non si augura a nessuno, oddio, quasi nessuno lo augura a nessuno, in rete, ma poi ci sono casi. Poi parleremo però anche casi di un minoritari caso. Anche, forse non dovremmo neanche dargli tutto quel peso. Sì, forse quando si comincia a dire che la rete ha detto, esatto, forse magari una sono pochissimi. Una distorsione che poi danno, tendiamo ad amplificare inutilmente, penso appunto al caso di Nadia Toff, che tra l'altro anche lei sta bene, sono viste delle foto finalmente fuori da e ogni parleremo sanitaria. Tra poco anche di questo argomento. Però Frizzi lo attendevamo settimana scorsa, non so se l'avevi visto, erano andati a sorpresa per il compleanno della Clerici, erano andati Conti e Frizzi a trovarla, quindi la prima uscita pubblica era quella, e avevano dato anche una notiziola un po' buttata lì, Frizzi sembrava un po' preso in contropiede, parlavano di una cosa a tre televisiva, in condizione forse ai migliori anni, che potrebbe essere curioso. Bello, allora, io sono una grandissima Frizzi, fan dei migliori anni, come mi piacciono queste cose. Proprio pane per i tuoi denti. Oh, quanto mi piace i migliori anni, quanto mi piace. Nostalgica. Nostalgica, mi piacciono i grandi show, ho seguito un filino meno, ve lo confesso, quest'anno X Factor, che è finito così. Il pubblico, con i suoi voti, ha deciso che tra i Maneskin e Lorenzo Licitra il vincitore di X Factor 2017 è Lorenzo Licitra! Allora, la vittoria a sorpresa di Lorenzo Licitra per questo X Factor, che è andato molto bene ad ascolti e come sempre molto bene in rete sui social, anzi trova una sua dimensione d'elezione, direi. Anzi, vero. Sembra... Se i social fossero la vita reale, farebbe il 50% di ascolto. Invece ho fatto l'11 sommando le varie piattaforme. È buono, buonissimo. Ha quasi vinto la serata quella sera. Ha fatto quanto Canale 5, che aveva una fiction che non sta andando bene, con quella con Francesco Arca. Quindi di fatto, sommando tutto, è arrivato a un risultato da ammiraglia generalista. Sommando Sky 1, Cielo, TV8 in chiaro e qualcos'altro che adesso dimentico, però è un risultato sicuramente generalista. Sai, per me X Factor è diventato ormai, che ci piaccia o meno, anch'io seguo magari di più le fasi preliminari, quelle di montaggio, quindi selezioni, bootcamp eccetera, poi meno la gara, tendo ad annoiarmi, però comunque è un grandissimo spettacolo, ed è il Sanremo 2.0 per i 20-30-40enni. Allora, il Sanremo diffuso, allora, durante l'autunno. Allora, poi parleremo, perché tu hai detto Sanremo 2.0 e poi ti dirò invece che Baglioni ha parlato di Sanremo 0.0, che poi ha azzerato tutto. Sì, poi capiamo cos'è sto Sanremo 0.0. X Factor per me perfetto per i social, perfetto per la rete, anche perché tu fai il video dell'esibizione che diventa subito diffusissimo in rete. Esemplare per quanto riguarda il trattamento della rete di X Factor è il caso di Rita Bellanza. Certo. Quello è proprio paradigmatico. E vediamo se si ripete da qualche parte anche con i Maneskin. C'è qualcuno di il problema dei talent, no? Per tre mesi o meno, se escono prima, facciamo di alcune di queste figure che sono magari più telegeniche, più pompabili a livello televisivo, facciamo dei divi, li abbigliamo come Madonna, come Prince o Lady Gaga, e per appunto alcuni mesi li facciamo sentire delle superstar in dei set con delle coreografie che non vedranno neanche se diventeranno Prince o Madonna. Anch'io, se mi metto con una coreografia di Tommasini e quelle luci lì, Posso ingannare, Marta, posso sembrare. Cioè, poi le ascoltate in radio quegli stessi pezzi senza tutta quella panna montata intorno, e sono un po' meno forti in alcuni casi. Io spero soprattutto che questi ragazzi poi appunto non siano pronti poi per mesi e anni di analista, dopo che il loro ego viene pompato così. Beh, è il caso di Rita Bellanza, poi gente che appunto che poi non riesce a reggere la pressione. Sì, anche perché poi nel caso di Rita Bellanza, subito in rete questa sua storia, quel video di Sally che è andato dappertutto, e poi la rete di distrugge, perché tutti a dire deve uscire, poi lei che twitta che i Maneskin sono antipatici, poi si dissocia, che non era probabilmente il suo, perché una serie di prove dimostrano da altre cose che lei aveva twittato che se non era lei era il suo staff, il suo cugino, suo fratello, ecco, non lo so. Vabbè. Però io faccio una proposta per i talent da qui in avanti, soprattutto questi molto forti con molta carica emotiva, oltre ai coach vocali, ai giudici eccetera, anche un bel coach, un analista, ecco, un psicoterapeuta. No, ma per non gli analisti che di tipo talk dopo, no, quelli no, analisti no, no, veri, analista vero, psicoterapeuta. Okay. Per aiutare questi ragazzi, in alcuni casi giovanissimi, anche poi al dopo, a reggere tutta questa pressione. Ti faccio una domanda flash prima di dare la viabilità e prima di presentare il nostro super esperto. Sono contentissima di averlo in studio con pensa noi. Che carica, che pressione che ti sta dando. Esatto. Allora ve lo svelo dopo. Allora, ieri sera una delle cose che si dicevano di più, almeno nella mia timeline di Twitter, di più o meno esperti, era la serata televisiva di Sara Sanremo è faticosa, anche perché la sera prima c'era X Factor e X Factor mette l'asta troppo alta nello spettacolo. Può essere una spiegazione giusta? Può essere, ed è anche vero che non l'ho vista tutta Sara Sanremo ieri sera, però quello che ho visto era molto X Factorizzato, perché se pensi ai giudici, appunto, c'era gente come Pelù, che viene da Talent, The Voice. Le clip di presentazione di questi ragazzi erano molto X Factor, anche gli effetti sonori prima dell'ingresso in studio, quelle cose lì, molto X Factor. Il conduttore Federico Russo viene da The Voice. Del resto, se pensi che X Factor quest'anno ha puntato molto e molto in anticipo per la prima volta anche sugli inediti, beh, quella contaminazione c'è. E forse però su Rai 1 non te l'aspetti, forse il pubblico di Rai 1 non era pronto a una cosa simile, magari forse su Rai 2 sarebbe andato bene più o meno uguale. Ha fatto peraltro un risultato simile in termini di ascolti all'X Factor della sera prima, un 11% giù di lì, molto più basso del 15 qualcosa dell'anno scorso, vado a memoria, ma era sul 15. Però l'anno scorso c'era Carlo Conti che presentava, certo, in continuità col festivalone, certo, prima e il festivalone dopo, e invece chissà cosa succederà quest'anno. Dai, allora un po' di pausa e poi scopriremo tutto sul Sanremo 2018. Iberdrola è arrivata in Italia. è leader mondiale nella produzione di energia rinnovabile ed è qui per te e per la tua voglia di verde, perché porterà a casa tua risparmio ed energia verde garantita al 100%. Vieni a conoscere tutte le offerte e i servizi su iberdrola.it oppure chiama all'800 690 908. Scoprirai che l'energia verde fa bene anche alla bolletta. Risparmia ora con Iberdrola. Iberdrola, tutta l'energia verde che vuoi. Promo 24. Ogni giorno il futuro dell'auto compie passi sempre più importanti. Una nuova visione della mobilità che vede protagonista Volvo XC90. Il SUV svedese che esprime al meglio tutto il lusso scandinavo è infatti dotato di Pilot Assist di serie, il sistema di ultimissima generazione che assiste il conducente fino a 130 km orari. Il Pilot Assist consente di mantenere la velocità impostata adattandola ai veicoli antistanti, aiuta il guidatore a mantenere la corsia e a direzionare lo sterzo. Una nuova forma di libertà che a bordo di Volvo XC90 è unita a sistemi di connettività senza barriere per inaugurare una nuova dimensione di guida. Per saperne di più, www.volvocars.it. RadioTube Social Network. Torniamo indietro a quello che è successo ieri sera, perché è stato nelle prime posizioni anche degli hashtag mondiali, delle tendenze mondiali. Cancelletto, sarà Sanremo. Il primo campione in gara per il Festival di Sanremo 2018, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Il Segreto del Tempo. Ora capite perché sono qua. Dopo abbiamo qualcosa da chiederti, Francesco. Mario Biondi con Rivederti. Mario Biondi. Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Il Coraggio di Ogni Giorno. E così ieri sera, poco a poco, sono stati svelati, oltre ai nomi dei giovani, lo dicevamo poco fa, con questa gara un po' talent, i nomi degli otto ragazzi che si contenderanno la palma, perché è proprio una palma, col leone a Sanremo, i nomi dei big, i 20 nomi dei big del festival, studiato da Claudio Baglioni. E allora, per la prima volta in studio a RadioTube, il massimo esperto galattico di Festival di Sanremo, Eddie Anselmi. Ciao Eddie. Ciao Marta, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 24. Allora, non so, Sebastiano, se tu conosci Eddie, facciamo una cosa. Di fama. Allora, senti, Eddie, ma Claudio Baglioni ha mai presenziato a Sanremo? Presenziato un paio di volte come ospite, ma gareggiato una volta sola in quanto autore della canzone A Modo Mio, cantata da Gianni Nazzaro nel 1974. Ma ci sono delle canzoni di Sanremo incise da Claudio Baglioni? Beh, nel 1971 e 72 lui incise le canzoni degli album della RCA cantando le canzoni degli artisti che RCA non erano. Per esempio, 13 storie d'oggi, la canzone di Albano del 71, venne incisa anche da Claudio Baglione. Ad esempio, oggi, Sebastiano, di fronte a questa sapienza io mi taccio da qua alla fine della trasmissione. Ma capisci che tu puoi fare delle domande a caso e lui ti risponde. Ma si può fare fact checking o ci fidiamo? No, dobbiamo fidarci, anche perché è più forte perché certo. Per fare fact checking devi chiedere a lui, certo, Wikipedia cita oppure lui. Devi controllare sugli almanacchi di Sanremo, ma gli scritti lui, quindi non c'è niente da qui. È la fonte ultima. Ma il trucco è che quando non lo so, devo dire non lo so, perché si può perdere la credibilità in un momento. Esatto. Bravo, umiltà. Allora, intanto ti chiedo un commento su questi 20 big, che poi in realtà sono 40, perché sono gruppi, duetti, certo, terzetti, abbinamenti. Contando i gruppi come uno, a meno che il cantante non abbia una carriera solista indipendente, io ho contato 29 soggetti. Mm-hmm. Poi le individualità, le persone sono molto di più di 29, credo che siano 39 oppure 41 a seconda di come si contano i decibel e Ruggeri e sarci nelle vibrazioni. Capito, è una cosa, ok. Ti è piaciuto questo cast? Tantissimo, perché se dovessi dare un titolo a questo cast, che titolo daresti? Varietà e qualità, non mi sembra di essere banale, però mi ha stupito in ogni tipo di partecipazione, di annuncio. È chiaro, mi aspettavo qualche gruppo giovane in più, forse mi aspettavo. Ci sono i tuoi bolognesi, lo stato sociale, i tuoi compaesani. I miei compagni di scorribande, anche insomma di squadra, nella squadra nella quale militammo insieme qualche anno fa, sempre radiofonica. E poi c'è un altro bolognese importante per me, almeno per la mia, è un autore, anche se gli autori non sono stati ancora rivelati, perché l'autore della canzone di Red Canzian è Michi Porru. Michi Porru, ciao Michi, lo devo dire a un mio amico. Ciao Michi, stamattina mi sono svegliata con un WhatsApp di Michi con scritto Sanremo cuoricino. Allora lì ho capito, grande Michi Porru. E poi devo dirti che c'è un'altra parte importantissima di Bologna. Claudio Baglioni ha rivelato che il brano di Ron è stato scritto da Lucio Dalla, cioè era un brano, un provino trovato dalla Fondazione Dalla, mandato a Claudio Baglioni, e Claudio Baglioni ha detto giustamente non poteva che cantarlo Ron. Che però bello. Posso dire una cosa, Baglioni ha detto la prima volta che capita che si porti in gara un inedito di un cantante defunto. Di un cantante defunto no, e neanche di un autore defunto. La prima volta fu addirittura negli anni 50, ci fu un autore che morì in un terremoto in Messico e l'anno dopo nel 57 gli portarono l'inedito in concorso. Però insomma invece è famoso il caso Rino Gaetano, Paolo Rossi. Vedi, capito, io faccio quell'esperta che le so, perché infatti mentre Baglioni parlava io facevo no, Paolo Rossi, anche così, no? Sei proprio la secchiona. Però lui tanto di più. Allora ragazzi, tu hai detto qualità, autori. Lui ha detto che, Claudio Baglioni ha detto, vuole un festival di qualità, un festival di musica e di parole. Perché vuole un festival di parole? Non è che se uno fa la maratona quelli che stanno in fondo vengono uccisi, eliminati, cremati. E perché forse è un po' anche il periodo in cui un po' le parole ci sono diventate tutte violente, l'eliminazione, la rottamazione, è stato asfaltato, è stato umiliato, è stato spernacchiato. E allora insomma è anche così, siccome lavoriamo con le parole anche nel nostro mestiere. Allora, lavoriamo con le parole giuste. Quindi, Sebastiano, mi sembra che televisivamente si possa configurare una cosa forse meno agguerrita, non lo so. Direi di sì, da questa dichiarazione programmatica, bellissimo che sia anti-hater, però di questi tempi. Poi lui aveva già detto esibizioni più lunghe, mi sbaglio adesso, sono un filino più lunghe le canzoni, qualche 30 secondi in più, sì, qualche secondo in più, basta la serata delle cover, esatto, che però era molto spettacolare in qualche forma, no? Cioè, non lo so, è un po' un rischio televisivo, anche perché le incognite televisive, io chiedo a voi che siete più ferrati di me, tu arrivi da Sanremo, capire qualcosa di più della forma, chi conduce per esempio, allora, a parte questa presenza della Unziker, gliel'abbiamo chiesto e Claudio Baglioni ha risposto così. Siccome c'ho un retaggio da chierichetto e da catechista, ho chiesto di fare il sacrestano, cioè quello che accende le candele all'inizio e poi chiude la chiesa quando sono andati tutti i fedeli, sono andati via. Sì, no, la paura è enorme. Poi sai, quando uno c'ha paura diventa forse anche, cioè, è l'adrenalina, è quell'illusso che vi dicevo, poi la paura fa un bene verosimile. Allora, lui non vuole fare il conduttore, tutti gli hanno detto sì, però il pubblico vuole vederti sul palco, e lui ha detto voglio fare il sacrestano. Entro, apro e chiudo e spengo, accendo le candele. Il custode dell'Ariston. Il custode. Io penso che però la gente abbia anche voglia di vedere un po' di Baglioni, magari anche cantare. Baglioni, 2 anni fa, quando Carlo Conti invitò a presentare il festival insieme a lui, a Risa ed Emma, una delle critiche più grandi che si fecero a quell'edizione era sì, vabbè, hai Risa e Emma, le ultime due donne vincitrici del festival, e non le fai cantare, le fece cantare solamente il Carrozzone, un omaggio agli artisti che erano recentemente scomparsi. Secondo me Baglioni appunto non potrebbe fare a meno di dedicarci un po' di suo repertorio, anche se il suo repertorio è sempre stato lontano da Sanremo, se non appunto quella a modo mio. Poi andò una volta a una manifestazione collaterale all'inizio del Festival 70, arrivò ultimo. Però scusa, anche a livello televisivo deve dare qualcosa. Peraltro quando certo, avevo fatto sì, quelle due sì, serate sì, di sì, Capitani Coraggiosi con Morandi, vero che era montato, che erano numeri provati e riprovati nel loro tour, la diretta di Sanremo è un'altra cosa, però un certo savoir-faire anche televisivo, una capacità anche autoironica, così c'era, cioè, troviamo delle dinamiche con la Unziker, con quello o quella che sarà. Ah, perché tu dici che la Unziker il conduttore, la conduttrice, no, è il nome, è quella che più si fa. Sì, si poi fa. Però qualcun altro gli metteranno a fianco, solo la Unziker da sola per tutte le no, serate, anche con perché questo se lui che vuole entra solo ed esce, basta. Sì. Che paura. Quanta gli hanno curiosità... lasciato sto bolide in mano, lo dicevamo prima, no? Sì, abbiamo Dice, detto. Tu hai la patente, quindi vai a condurre una cosina come una Lamborghini, come una Ferrari. Come una Ferrari in Perché televisivamente in è quello, sì. Puoi essere un grandissimo cantante, ma questo è un altro mestiere. Quanta curiosità c'è da parte dei critici, poi tu hai a che fare con i giovani analisti di TV Talk, quanta curiosità c'è nei confronti di Sanremo televisivamente? Tantissima, sempre e sempre di c'è più. C'è anche dai, i ventenni, perché questi ragazzi sono giovanissimi. Beh, attraverso il second screen, attraverso tutta la parte social, e lo diciamo sempre ogni anno a TV Talk, ripetiamo questa formula, che saremo insieme il nostro Super Bowl, cioè l'evento televisivo più guardato e commentato della televisione occidentale, insieme alla nostra notte degli Oscar, insieme al nostro Golden Globes, è tutto concentrato è vero. Quello. Quest'anno non ci sono neanche mondiali, calcio, eccetera. No, i mondiali ci sono. Esatto. Devono che non ci siano. Senza di noi, esatto. Allora, però ripassiamoli questi nomi. Annalisa, Enzo Avitabile insieme a Peppe Servillo, Luca Barbarossa, Mario Biondi. Che bello, Mario Biondi in italiano, ma ce l'aveva già detto in un'intervista, vorrei fare Sanremo. Giovanni Caccamo, Red Canzian, Decibel, insomma, c'è Enrico Ruggeri, avremo un altro Enrico Ruggeri a Sanremo. La lettera del Duca si intitola quindi Io ci scommetto, dedicata a David Bowie. Diodato insieme a Roy Paci, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Max Gazzè, The Colors in italiano dunque, Ermal Meta insieme a Fabrizio Moro, Ron, lo dicevamo, lo Stato Sociale, Noemi, Renzo Rubino, Ornella Vanoni insieme a Bungaro e Pacifico, Le Vibrazioni, Nina Zilli. Ne ho saltato uno, perché so che il nostro Eddie li ama molto, Elio e le Storie Tese. Grande sorpresa. E non saranno sciolti. Allora, sentiamo come ha spiegato Baglioni. È vera questa notizia, non è neanche un'Eliata delle loro. Loro finiranno la loro carriera a Sanremo. Spero che non che siano i soli, perché non vorrei provare anch'io questa emozione. Allora, lui dice, loro hanno scritto ultimo concerto che è tra tre giorni. Ultimo concerto, allora lui li ha chiamati dicendo, intanto non dovete scrivere ultimo concerto, dovete scrivere concerto addio, perché ultimo concerto poi potete dire che era solo l'ultimo concerto dell'anno. Anche, sì, magari porta anche un po' sfortuna. E poi lui ha detto loro, ma invece di sciogliervi con l'ultimo concerto, perché non vi sciogliete a Sanremo? Quindi, Eddie, ci sarà lo scioglimento, lo dico purtroppo, avverrà davvero, la canzone si intitola Arrivederci, si sciolgono a Sanremo, sul palco dell'Ariston. Ma se vincono? Allora, io adesso so che Eddie sta aprendo un nuovo capitolo, sono le 17.29, chiudiamolo in un minuto. Cioè, se vincono loro possono decidere di andare all'Eurovision. Ma potrebbero anche decidere di non andare, però se vincono hanno il biglietto in mano. Esatto, quindi chi vince può scegliere di andare, però deve dirlo prima. Non è detto. Allora, cioè, io ho vinto, ok, vado. Oppure dice, io ho vinto, no, non vado, non mi interessa. Allora chi va se non va chi vince? È successo una sola volta, ha deciso la RAI, può decidere senza tener conto del festival. L'ultima volta ha tenuto conto editorialmente del festival ed ha prescelto la seconda classificata. Che era la Michelin. Però non è detto che sia il secondo. Potrebbe essere il terzo, il quarto, sarà una scelta editoriale. Tra l'altro si è parlato molto di Eurovision in rete questa settimana, perché vi ricordate il nostro Francesco Gabbani sconfitto da Salvador Sobral, il portoghese che purtroppo ha una grave patologia cardiaca, e questa settimana ha avuto, insomma, con successo il trapianto di cuore, quindi insomma qualcosa di molto molto molto importante. Parliamo ancora di musica tra poco, per un argomento difficile però importante, interessantissimo, dopo una brevissima pausa. Il Natale è da Euronics con il sottocosto. Fino al 24 dicembre Samsung Galaxy A5 resistente ad acqua e polvere tuo a soli 279 euro. Meglio non lasciarselo sfuggire. 5.000 pezzi disponibili. Euronics ti ascolta, davvero. Il Natale sembra non arrivare mai, come i capolavori della casa vinicola Sartori. L'amarone della Valpolicella e il Valpolicella Ripasso Sartori, sulla tua tavola solo dopo un lungo affinamento. Eh sì, per la qualità Sartori serve tempo, ma non vedi l'ora di fargli la festa. Con Chuck Norris non conviene lo scontro, ma lo sconto sì. Con la fine dell'anno arriva lo sconto finale di Fiat Professional. Fino a 13.000 euro di vantaggi su Ducato, Talento, Doblò, Fiorino e Fullback in pronta consegna. E con il leasing FCA Bank, pianale sagomato e antifurto meccanico del vano di carico by Mopar inclusi nel prezzo. TAN 3,95, tasso leasing 4,03, info su fiatprofessional.it. Affrettati, lo sconto finale scade il 31 dicembre. Per una volta Chuck concede un lieto fine.

se non come concorrente nella grande scuderia. E poi voglio dire, Nina Zilli, Renzo Rubino, Giovanni Caccamo, sì, discografia pura, però lanciati da quel talent, come ha detto ieri Facchinetti, che è le nuove proposte. A che servono le nuove proposte se non a essere un trampolino di lancio? Pure sono passati di lì. Sì, ragazzi, insomma, cioè, ci sono tante storie, queste saremo le scopriremo tutte. Ma questa settimana è successo qualcosa di molto interessante sul fronte della musica. Allora, è un argomento complesso, ma che è molto molto succoso, perché tutti noi leggiamo ogni settimana, ci capitano sotto gli occhi le classifiche di vendita. Cosa c'entrano con la rete? È perché ormai non solo i dischi si comprano in digitale, ma si ascoltano anche in streaming. Ebbene, anche i dischi in streaming contano per le classifiche. Questa settimana cambia qualcosa? Allora, per aiutarci a capire il meccanismo e come cambia questo meccanismo delle classifiche, ci colleghiamo con Enzo Mazza, il presidente della FIMI, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Difficilissimo. Buonasera Enzo, ciao Enzo. Ciao, ciao a tutti, ciao. Allora Enzo, è un argomento un po' difficile, lo spieghiamo per bene, cioè come si contano gli ascolti in streaming per fabbricare le classifiche di vendita? Allora, noi abbiamo introdotto lo streaming diversi anni fa nei singoli, nella classifica dei singoli, anzi oramai è solo streaming e download, mentre negli album sono stati inseriti a luglio scorso. Come si contano? In realtà, ovviamente, come sapete, il numero di streaming è enorme, quindi si parla di miliardi di stream che vengono effettuati ogni mese dai fan della musica in Italia. E per dare un peso allo streaming rispetto ai dischi venduti, quelli fisici, e al download, è stato introdotto un fattore che noi chiamiamo conversion rate. Questo conversion rate ha un fattore di conversione, appunto, che è 1 a 130 per i singoli, vuol dire che un download corrisponde a 130 ascolti, e 1 a 1300 per gli album, quindi un album in download corrisponde a 1300. Questo fattore serve poi per poter calcolare, dare il peso degli streaming nell'ambito di una classifica che, come dicevo prima, rappresenta anche il mercato fisico. Cioè, Enzo, ho capito bene, se io ascolto una stessa canzone su una piattaforma di streaming 130 volte è come se l'avessi comprata legalmente su una piattaforma di vendita digitale. Esatto, e attualmente, fino a, diciamo, alla fine di quest'anno, questi stream in qualche maniera convivevano sia gli stream fatti dai clienti in abbonamento, quindi che pagano per questo servizio, sia gli stream gratuiti. Dal 1 gennaio noi elimineremo gli stream gratuiti dal conteggio. Cioè verranno conteggiati solo quelli che sono abbonati a Spotify, Deezer, Team Music e che pagano la cifra mensile. Esatto, cioè gli streaming, cosiddetti streaming premium. Questo non è che noi non consideriamo validi tutti gli streaming realizzati da tutti gli utenti. Tenete conto che lo streaming legale in Italia ha ridotto tantissimo, per esempio, il fenomeno della pirateria. C'è stato proprio un travaso dalla pirateria verso lo streaming legale nel corso degli ultimi anni. Però noi vogliamo considerare il valore del contenuto musicale acquistato e quindi dare una classifica di valore, una classifica che abbia che muova una certa economia, proprio perché appunto comprendiamo CD, vinili, streaming a pagamento e download a pagamento, quindi consideriamo questa. Non è un caso che noi, per esempio, non è compresa da sempre nella classifica, per esempio, gli streaming di YouTube, i video streaming. I video streaming di YouTube non entrano in alcuna classifica. Peccato. Esatto. Dici, Sebastiano Pucciarelli, che è televisivo, dice: peccato, come mai non si contano? Perché non c'è un modo per valutarli, non c'è un modo per valorizzarli, oppure ci sono delle trattative magari in atto per capire come farlo? No, questa è una scelta, diciamo, anche fatta a livello internazionale. In realtà, come tu sai, YouTube è fatto di due aspetti: uno, dei video ufficiali, che in parte sono poi quelli che provengono dalla piattaforma Vevo, che sono embedded dentro in YouTube, e dall'altra parte gli user generated. Fino ad oggi è stato complesso definire con Google dei meccanismi di conteggio per poter dare anche lì dei valori a quelli che sono gli user generated, cioè i video condivisi dagli utenti che però hanno brani musicali connessi, diciamo, sincronizzati con questi video e che hanno un valore anche questi, perché generano comunque un valore in termini di ricavi pubblicitari, e i video ufficiali. Dall'altra parte c'è poi il tema sempre aperto della comunque ancora scarsa valorizzazione dei ricavi da YouTube per la nota questione del value gap, cioè di questa differenza dovuta anche a meccanismi giuridici tra i ricavi che vengono dalla piattaforma di video streaming e da quella di Spotify. Tenete conto che ci vogliono, per generare un dollaro da YouTube ci vogliono 58 ore di fila di video trasmessi di un brano musicale, cioè 58 ore di play di un video su, esatto, YouTube generano un dollaro. Esatto, per un artista. Ce la fa Luis Fonsi con Despacito e pochi sì, altri. Ce la fa Luis Fonsi con Despacito che può andare a bersi una birra però alla fine o poco più. Beh, è un dato clamoroso. Enzo, non posso non chiederti se ieri sera hai seguito i Big di Sanremo, voglio dire, per la Federazione della Musica, insomma, Sanremo comunque resta un momento più o meno significativo. Beh, certo, sicuramente rappresenta un momento del mercato, anche se, come si dice, stamattina ragionavo su degli articoli che ho visto uscire oggi e che ho visto uscire dal 1900, io non ero ancora nato, però ho ripreso le rassegne stampa dal 1951 ad oggi. Il giorno dopo tutti i giornali scrivono la scelta di Sanremo tra innovazione e tradizione. Vabbè, dai, il titolo, perché bisogna vale chiuderlo sempre presto questo pezzo, no? Perché verso le 10:30 i giornali, le rotative, quelle che un tempo era, e allora quel titolo lì va sempre bene. Pensa che l'innovazione all'epoca era Nilla Pizzi, probabilmente. Ah, beh, certo, Nilla Pizzi era avantissimo. Eddie dice di sì. Il maestro Angelini portò i ritmi sudamericani in un repertorio che era fondamentalmente musica classica. Esatto, vedi. Enzo, tu invece il tuo titolo qual è di questo Sanremo? Ma credo che Baglioni abbia comunque fatto una scelta di musica, diciamo che c'è una scelta anche attenta ad aspetti autorali, sicuramente, diciamo che alla fine è una scelta anche coraggiosa, nel senso che va comunque a cercare anche lì, come ho parlato prima di valore della musica, di dare valore comunque ai contenuti, e questo è importante perché noi abbiamo dato, diciamo, un ampio mandato di fiducia a Baglioni, perché vedo che ha una grande attenzione anche per i giovani. Per noi poi interessa moltissimo quello che sono i giovani. Per l'industria sapete, sono importantissimi i giovani, la gara dei giovani. Esatto. Sì. Abbiamo visto negli ultimi anni Gabbani, Ermal Meta, due casi abbastanza, diciamo, sintomatici di come un'attenzione sui giovani abbia comunque contribuito a lanciare artisti che hanno anche un ritorno sul mercato, perché questo è un aspetto molto importante. Grazie Enzo Mazza, presidente della FIMI. Insomma, io sono riuscita a capire io questa storia delle classifiche, quindi se l'ho capita io, ce l'abbiamo capita tutti. Grazie Enzo, ti chiedo solo, ciao, quando esce la classifica dell'anno, quella vera della FIMI? Quella vera esce entro la prima settimana di gennaio. Ah beh, certo, perché ci vogliono i dati fino al 31 e ci devono invece essere adesso tutti. Adesso stiamo facendo la famosa Christmas Race, quindi da ieri è iniziata la gara che si concluderà il 22 del disco di Natale, del singolo di Natale. Cioè? Tutti, come funziona? Praticamente è una gara che coinvolge tutti i consumatori, ovviamente, di dischi e tutti i fan, per riuscire a mandare al primo posto il disco, l'album o il singolo che loro ritengono sia il singolo di Natale o l'album più venduto di Natale. Quindi il 22, venerdì prossimo, annunceremo chi ha vinto questa gara di Natale che si consumerà tutta questa settimana. Mi poi piace la settimana un sacco più importante, le vendite di dischi. Mi piace un sacco. Grazie Enzo, alla prossima. A presto, ciao a tutti. Noi facciamo una brevissima pausa, traffico, poi ancora insieme. Radio Tube Social Network. E rieccoci insieme, abbiamo parlato un sacco di musica. Adesso è un po' un tempo di bilanci, perché abbiamo detto tra poco arriverà la classifica, quella della FIMI, quella delle vendite, e insomma è quella con tutti i dati per bene delle vendite e degli streaming. Abbiamo capito esattamente come si compone. La scorsa settimana invece avevamo dato conto ad esempio della classifica dei video più visti su YouTube, avevamo anche parlato della sola classifica di Spotify, ma ci sono delle altre classifiche che non riguardano solo la musica, perché molto significative per capire un po' come è andato quest'anno che si sta per concludere sono le ricerche su Google. Cioè, cosa cercano gli italiani su Google? Le parole, i personaggi, gli eventi, bellissimo, il come fare, il cosa significa. Mi piace molto questa classifica di Google, che dice tantissimo di noi, anche Sebastiano Pucciarelli e Eddie Anselmi se le stanno compulsando, quindi poi potete anche voi chiedere qualche curiosità a un'altra persona che io stimo molto, che è molto brava, che mi fa molto piacere avere collegata con noi, Communication Manager di Google Italia, Emanuela Locci. Ciao Emanuela! Ciao Marta! Eccola qua! Ma quanto è divertente questa classifica di Google? Sì. Cioè, quella che mi piace di più è il come fare. Cioè, cosa cercano gli italiani? Come fare le olive in salamoia? Le olive in salamoia. Le olive in salamoia. Ma sono in ordine di ricerca, cioè le olive in salamoia sono in assoluto il come più cercato, il come fare più cercato. E io sono rimasta scioccata su questa cosa. No, scusa, non è tanto in assoluto, ma è quello che ha avuto la maggior crescita in termini di ricerca, non in assoluto. Certo. E quindi evidentemente quest'anno improvvisamente ci sono state più olive. È una roba, è stata un'ottima annata per le olive, io confermo. Come fare il backup, è questo sacrosanto. Come fare la marmellata di albicocche, la carbonara, lo screenshot, il pesto, la crema pasticcera. Ma lo screenshot che piatto è, scusa? Le bolle di... Le bolle di sapone. Le bolle di sapone. Bellissimo, il passaporto, utile. Il cubo di Rubik. Ma che bello uno che cerca su Google come fare il cubo di Rubik. Adesso lo cerco anch'io. Ma invece il passaporto è per i falsari, cioè come farselo in casa il passaporto, ovviamente. Fantastico. Emanuela, che cosa secondo te che tipo di cercatori vengono fuori dalle vostre classifiche? Ma guarda, riferendomi un po' quest'anno, io vedo tanti italiani che hanno preso a cuore le sorti di tante persone. Per esempio, il fatto stesso che Nadia Toffa abbia avuto un incremento di ricerca così elevato da superare anche da sconvolgere le classifiche in un ultimo momento, perché oggettivamente l'Hotel Rigopiano, il secondo posto, Italia-Svezia, Sanremo, di cui parlavate prima, il terremoto, sono tutti fatti che hanno hanno riscontrato un grande interesse in termini di ricerca. E certamente il fatto di andare subito tanti a cercare come stava Nadia Toffa, perché veramente si poteva vedere come sta Nadia Toffa. Emanuela, sì. Su questo è stato divertentissimo anche come gli americani siano, tra virgolette, cascate nell'idea che lei fosse la terza persona più cercata al mondo. Invece, come ci hai spiegato prima, è un fattore di accelerazione. Cioè, Newsweek, il settimanale prestigiosissimo, per una volta appunto loro sono cascati in questa cosa pensando, e si chiedevano chi fosse Nadia Toffa. Era uscito un articolo un paio di giorni fa, Who is Nadia Toffa? Perché era hanno visto la terza persona più cercata questo... al mondo dopo Matt Lauer, il conduttore mattutino incappato nello scandalo molesti in America, un po' il Franco di Mare americano, e Meghan Markle, che è la promessa sposa del Franco principe. Franco di Mare per come fascia come di conduzione. Esatto. No, okay, no, Franco no. Non ha fatto nulla di tutto ciò che io sappia. No, anche poi magari lo incontri nei corridoi della Rai. Però è interessante perché appunto gli americani hanno dato, si chiedevano che fosse Nadia Toffa, perché effettivamente cercatissima dopo queste due tra l'altro persone. Le Iene hanno appena annunciato che domani sera vanno l'intervista a Nadia Toffa, quindi finalmente, questa cosa è una buona notizia, che vuol dire che lei sta meglio. assolutamente. Eddie, a te cosa hai incuriosito? Beh, ovviamente hai controllato subito se c'è Sanremo. Io ho controllato tu subito cosa significa, dove Sanremo è presente addirittura in tre voci, sì, su 10, no? Perché c'è Karma in nona posizione, andando avanti troviamo Namasté, e poi Pantarei, che è sempre appunto una... tutte parti di Occidentalis Karma. Fantastico, fantastico. E poi c'è tanto calcio. Vero. Ovviamente. Donnarumma, vedo. Donnarumma. L'altro giorno sentivo Italia-Svezia. Qualcuno che diceva, ero convinta che Donnarumma fosse una protagonista di Gomorra. Cioè, Donnarumma, giustamente. Nei biglietti non si cerca Sanremo, forse perché... Perché sembrano abbastanza inavvicinabili questi biglietti di Sanremo, perché adesso non so se si vendono ancora a pacchetto, ma sono, insomma, costosini, insomma, non è proprio il biglietto di un concerto. Se io fossi Google, sarebbe una delle domande che mi fanno di più. Come si trovano i biglietti? Eddie, tu Sanremo? Sì, certo. Anche te, suppongo. Beh, ogni tanto. E poi appunto biglietti EICMA, Vasco, Italia-Svezia, Lotteria Italia, c'è ancora Lotteria Italia, finale di Champions, U2, finale di Coppa Italia, Ed Sheeran, Rolling Stones e Romix. Quindi ci sono anche due eventi, EICMA e Romix, è significativo. Solo Vasco però è di cantanti italiani, sto vedendo. Solo Vasco, sì, mentre tra i personaggi ci sono molti personaggi italiani. Emanuela, ci sono sia belle notizie che brutte notizie, perché sono poi quelle che colpiscono maggiormente l'attenzione dei cercatori di Google, è inevitabile? Sì, è inevitabile, questo ricorre praticamente ogni anno, perché chiaramente ogni volta che si ha un fatto doloroso, drammatico, come può essere il terremoto, chiaramente tutti vanno a fare delle ricerche, sia per capire dove, come sta andando, come vanno le ricerche. Quindi c'è tanto interesse a livello anche di aggiornamento proprio. Certo, certo. Quindi sì, e quello che emerge quest'anno fondamentalmente è un po' un mix di fatti belli, fatti di cronaca, perché c'è sempre molta cronaca nei trends. Come dicevate prima, c'è tanto Sanremo in realtà molto più di Occidentalis Karma, Sanremo stessa la parola, le parole cosa significa, che sono tratte da Occidentalis Karma, ma anche nei personaggi ci sono moltissimi personaggi che hanno partecipato a Sanremo, e questo devo dire è abbastanza ricorrente. Adesso siamo pronti per i prossimi. Grazie Emanuela Locci, Communication Manager di Google Italia. Grazie Emanuela. Alla grazie prossima. Voi, ciao a tutti. Ciao. Allora, abbiamo solo 30 secondi. C'era Sebastiano Pucciarelli che mi diceva: guarda, hanno cercato tutti perché Fedez piange. Sì, non nella lo categoria so di perché tra perché la Corea del Nord vuole attaccare gli Stati Uniti e perché Licci Cale canta. Perché Fedez piange. Ragazzi, devo ringraziare Eddie Anselmi e Sebastiano Pucciarelli che sono stati con me. Ritornate per favore, ancora. Quando devo vuoi. Ringraziare Cristian Goldoni e Paolo Corleoni. È tutto per questo Radio Tube con un sacco di cose bellissime. Ci ritroviamo sabato prossimo.